Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, bentornati a Strade e Motori, appuntamento settimanale dedicato alla mobilità in tutte le sue declinazioni. Per questa puntata di Pasqua, a proposito, auguri per una serena giornata di festa, abbiamo preparato una scaletta molto ricca, molto varia. Spazieremo dal mondo dei treni, vi faremo conoscere meglio cosa sfreccerà sulle rotaie italiane dal prossimo anno, poi il mondo delle moto con la novità di una delle case più importanti ed affascinanti del panorama internazionale, poi il futuro dell'auto elettrica e qualche consiglio per risparmiare sul pieno. Allora, si parte dall'alta velocità su rotaie. 1000 km di rete da percorrere a 300 km all'ora. Volendo dare solo due cifre, potremmo riassumere così il compito e l'impegno che si è data NTV, che sta per Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che dal prossimo anno scenderà in campo per fare concorrenza diretta con il suo nuovo Italo a Freccia Rossa e Freccia Argento di Trenitalia. Con noi c'è l'amministratore delegato di NTV, l'ingegner Giuseppe Sciarrone. Buona domenica e grazie per essere con noi. Grazie a voi, buona domenica. Quando vedremo Italo sulla rete ferroviaria italiana, ingegnere? C'è già una data per il viaggio inaugurale? Settembre dell'anno prossimo, 2011. Non manca tanto, sembra molto, ma in effetti è dietro l'angolo. Immaginiamo anche che questa attesa verrà vissuta con una certa emozione, oltre all'impegno per che tutto sia a posto per quella data. Beh, certamente, noi siamo partiti di fatto a costruire da zero una nuova società che deve operare nel nuovo mercato del trasporto viaggiatori ad alta velocità a gennaio del 2008, e quindi in 3 anni e mezzo siamo confidenti, siamo sicuri di completare questa opera di costruzione della società e quindi avviare il servizio nella tarda estate del 2011. Su quali tratte, ingegnere, inizierete il servizio, con quanti collegamenti al giorno? Cominceremo sulla Milano-Roma-Napoli, sulla Roma-Bologna-Venezia, sulla Milano-Torino e pensavamo anche di iniziare sulla Roma-Napoli-Bari, ancorché le difficoltà di questa linea, ultimamente ci sono state anche degli smottamenti che impediscono la circolazione dei treni, ci sta portando alla decisione di ritardare un po' l'avvio di questo servizio. Faremo ogni giorno 52 treni, che vuol dire una frequenza oraria, un treno ogni ora da Roma verso Milano e viceversa, e frequenze biorarie tra Roma e Napoli, Roma, Bologna, Venezia e Milano, Torino. I viaggi, i trasporti saranno effettuati appunto a bordo di questo nuovo Italo di costruzione francese. Al di là delle specifiche tecniche, quali sono le novità principali che i viaggiatori che sceglieranno NTV dal prossimo anno potranno proprio testare con mano? Ma dunque, innanzitutto noi abbiamo scelto il treno di Alstom, l'AGV, che si chiama in termini tecnico l'AGV, perché è il treno di nuova generazione del più grande costruttore mondiale di treni ad alta velocità, che è la francese Alstom. Quindi un treno tecnologicamente completamente nuovo, sul quale noi installeremo una serie di servizi che pensiamo siano innovativi. In primo luogo, il treno sarà completamente informatizzato, di modo che i nostri viaggiatori potranno utilizzare sempre il collegamento internet e potranno anche vedere in diretta le trasmissioni televisive. Dal punto di vista del costo dei biglietti, quale sarà la vostra strategia, se può anticiparcela? Il nostro treno è fatto da 11 carrozze e su queste carrozze ci saranno servizi estremamente differenziati, per cui si andrà da servizi di sempre mantenendo standard di qualità elevati, e poi conviveranno sul nostro treno viaggiatori ad alta disponibilità a pagare, che chiedono servizi di grande qualità con viaggiatori, pensiamo agli studenti, ai giovani che preferiscono il servizio low cost, e quindi offriremo anche a loro delle tariffe particolarmente vantaggiose per muoversi su quelle direttrici da noi servite. Quanti posti di lavoro creerà NTV quando sarà entrato a regime? Dunque, come lavoratori diretti saranno 1000 i nostri dipendenti. In più ci sono tutti i lavori indiretti generati dalla nostra attività, per cui la occupazione generata è valutata intorno ai 2000 addetti. Per quanto riguarda i vostri obiettivi, ingegnere Sciarrone, quale quota di mercato vi proponete di raggiungere e cosa in questo momento si sente di dire voi avete di più rispetto ai vostri competitor, che poi sono Trenitalia ma anche Alitalia, soprattutto sul Roma-Milano? Ci sarà un periodo di breve fra il 2010, 2011 e 2015 in cui è difficile fare previsioni di mercato. Noi riferendoci al 2015, quando prevediamo che sarà tutto stabilizzato, noi contiamo di arrivare ad una quota di mercato del 25-30%. E rispetto alla concorrenza, ecco. Per quanto riguarda la concorrenza, noi innanzitutto stiamo vedendo che gli attuali servizi alta velocità offerti da Trenitalia sono eccellenti, rappresentano un miglioramento netto rispetto al passato, e pensiamo anche modestamente di aver dato un contributo a questo sforzo importante che hanno fatto le Ferrovie dello Stato, perché la sola prospettiva dell'arrivo della concorrenza ha spinto a fare di più e di meglio. Noi ci auguriamo che sia una competizione sana, costruttiva, nell'interesse del mercato e dei viaggiatori. Ultimissima domanda, ingegner Sciarrone: esiste in qualche cassetto della sede di NTV un progetto per un ipotetico ingresso anche nel mercato del trasporto ferroviario locale e pendolare, oppure è ancora presto per ragionarci su? Guardi, certamente ancora presto, per un motivo molto semplice, che noi stiamo tentando un'avventura del genere, siamo i primi in Europa e penso nel mondo. Credo che non sia esistito certamente in Europa dei privati, quali i nostri azionisti, che investano una cifra enorme, 1 miliardo di euro, nel trasporto ferroviario per competere con aziende fortissime che hanno tradizione di più di un secolo, come le grandi aziende di Stato. Questo ci impegna moltissimo nel nostro progetto, basando sulla convinzione che per fare le cose bene bisogna farne una alla volta. Adesso la nostra organizzazione è tutta concentrata sul settembre 2011 per partire in modo impeccabile, nel miglior modo possibile. Quando saremo certi di avercela fatta, cominceremo anche a pensare a sviluppi ulteriori, sia nel trasporto interno locale, quello dei cosiddetti pendolari, sia anche nel trasporto internazionale. Una cosa per volta, ma il nostro futuro dipende da quanto avremo fatto bene il primo passo. E allora grazie all'amministratore delegato di NTV, Giuseppe Sciarrone, che è stato ospite questa domenica di Strade e Motori. Grazie ancora, grazie, buon lavoro. A voi. Venerdì 9 aprile, venerdì prossimo dunque, all'autodromo di Vairano in provincia di Pavia, sulla pista di quattro ruote, sarà celebrato l'Electric Day 2010, una giornata che il mensile quattro ruote dedica all'approfondimento di una gran varietà di temi dedicate proprio all'applicazione dell'elettricità al mondo dell'auto, ma non solo. Ci facciamo raccontare come nasce questa iniziativa e di cosa si discuterà venerdì dal direttore di quattro ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore. Buona domenica a voi. Auguri, buona Pasqua, perché non ce li siamo fatti. Allora, direttore, avete chiamato un po' a raccolta tutti gli attori, no, dell'elettrico, aziende, istituzioni, tutti quanti impegnati in questa sfida, grande sfida dell'auto elettrica. Come nasce questa iniziativa? Ma nasce dalla nostra volontà di fare testare a un pubblico per ora selezionato, che è quello delle grandi aziende, quindi delle grandi flotte sia pubbliche che private, queste auto elettriche che arriveranno sul mercato a partire dalla seconda metà del 2010. Siamo riusciti ad averne in anticipo un certo numero sulla nostra pista, perché avremo appunto le macchine di Mitsubishi, Smart, Peugeot, Citroën, Microvet, e quindi insomma sono diverse marche e diversi modelli, oltre ad avere anche automobili ibride come quelle della Honda con l'Insight, e quindi faremo testare queste automobili, come dicevi in anteprima, a un pubblico di operatori molto qualificati che gestiscono parchi auto che arrivano complessivamente anche alle 100.000 unità, per capire se nelle prossime scelte di acquisto acquisire un'auto elettrica può essere per loro un'opzione interessante. E come dicevi tu prima, la cosa nuova di questa iniziativa è legata al fatto che non ci saranno soltanto i produttori di auto, ma anche i produttori di energia elettrica, che dovranno raccontare un pochettino quanto queste auto consumeranno in termini di energia e quanto costerà questa energia, e anche i grandi noleggiatori, perché si pensa che all'inizio queste macchine verranno soprattutto noleggiate e non acquistate. Io non credo che nei prossimi anni vincerà il benzina, il diesel, l'elettrico, il metano. Io penso che sarà molto importante avere molte opzioni e lasciare che sia poi l'automobilista alla fine a scegliere quale in quel momento per lui è più opportuno e più conveniente. Direttore, una parte di questa giornata sarà dedicata anche al progetto 4 ruote 10x10. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che è nato 3 anni fa, coinvolgendo appunto all'inizio 10 grandi aziende che si erano impegnate con noi a diminuire di almeno il 10%, quindi di qui appunto il nome 10x10, le emissioni e quindi i consumi delle loro flotte aziendali. Come dicevo, parliamo di flotte aziendali molto importanti che in alcuni casi, come per Enel e Telecom, investono anche più di 10.000 automobili, e quindi parliamo di molte tonnellate di CO2 che vengono risparmiate attraverso dei programmi di acquisto di macchine più ecologiche, ma anche di razionalizzazione degli spostamenti, di addestramento delle persone che queste macchine devono guidare, a guidarle in modo appunto più responsabile e più ecologico. In realtà però nel corso di questi anni questo progetto, da un progetto con finalità, come dicevo prima, soprattutto di ecologia e di risparmio di denaro, si è allargato a un grande, diciamo, user group, come si dice adesso, ovvero una, diciamo, avanguardia di persone molto qualificate che anche testano macchine che arriveranno sul futuro nei prossimi mesi e dicono alle case che cosa ne penseranno gli utilizzatori, dando un responso anticipato e anche dicendo le macchine che loro hanno in flotta che tipo di affidabilità hanno, che qualità hanno. Quindi diciamo un gruppo di utilizzatori molto qualificato, con delle flotte che fanno molti chilometri all'anno e che quindi hanno pieno titolo per dire alle case tra i loro prodotti che cosa funziona e che cosa invece ha dei problemi e quindi va corretto. Grazie a Mauro Tedeschini, direttore di 4 ruote. Buona domenica, a presto. Buona Pasqua ancora a voi, a tutti. Seconda parte di Strade e Motori. Nella prima abbiamo parlato di treni e di auto, tra poco tocca alle moto. Vi faremo conoscere quelle che saranno le novità di una delle case più affascinanti del panorama internazionale. Ma prima le consuete news dal mondo in movimento. Il governo americano ha assegnato alla NASA il compito di investigare sulla vicenda dei guasti all'acceleratore delle Toyota, dopo i maxi richiami dei mesi scorsi. Washington ha investito oltre 3 milioni di dollari per creare una commissione per far luce sull'accaduto. Toyota, intanto, ha deciso di sospendere la produzione nei suoi stabilimenti in Europa per 12 giorni, in aprile, a causa del calo di vendite subito in questo inizio 2010. Sarà lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, a realizzare la nuova Fiat Panda, a partire dalla seconda metà del 2011. Lo ha annunciato la Casa del Lingotto, che investirà sul centro produttivo campano oltre 700 milioni di euro. Accogliendo i ricorsi del Codacons, il TAR ha annullato gli aumenti delle tariffe autostradali, avvenuti nel 2006 e nel 2008, sulle autostrade A24 Roma-L'Aquila e sulla A25 Torano-Pescara, gestite da Autostrade dei Parchi. L'Associazione dei consumatori chiede che le tariffe vengano riportate indietro a quelle di 5 anni fa e che vengano restituite le somme pagate in più dagli automobilisti. È una delle più prestigiose ed amate case produttrici di moto in Europa, la KTM, cuore austriaco, ma anche radici importanti nel nostro paese, in Italia, dove le KTM hanno un grandissimo numero di appassionati. Dopo un anno molto difficile, per usare un eufemismo, KTM si è buttata in questo 2010 con grande entusiasmo, con parecchie novità interessanti, e allora è un piacere salutare il nostro ospite, Angelo Crippa, numero uno di KTM Italia. Buona domenica, dottor Crippa, grazie per essere con noi. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Com'è ripartita KTM dopo quest'anno complicato? A dire il vero, è ripartita sugli stessi numeri sostanzialmente dello scorso anno, con un piccolo incremento se guardiamo naturalmente i primi tre mesi di quest'anno. Possiamo senz'altro dire che in questi primi quattro mesi abbiamo avuto una crescita più o meno del 10%. Sicuramente non stiamo parlando di grossi numeri, però sicuramente un dato confortante in una situazione di mercato come quella attuale. Chi è il cliente KTM in Italia, Crippa? Quali differenze ci sono rispetto alle altre case? Ma, diciamo che KTM, per sua estrazione, è proprio un marchio di nicchia. Ha una produzione molto specifica, se parliamo naturalmente del fuoristrada, ma anche sul prodotto stradale, proprio molto caratterizzata da modelli tra virgolette, diciamo, pure speciali, e magari da un'estetica abbastanza diversa dal resto. È un cliente che sicuramente sta a cercare il prodotto che lo può differenziare, per dire, dal resto sostanzialmente che è sul mercato. È un cliente molto attento ai particolari, alle dotazioni tecniche che la motocicletta naturalmente può offrire, e pertanto è abbastanza, come si può dire, un cliente attento, puntiglioso e anche abbastanza esigente. Quale settore secondo lei nel 2010 tra virgolette tirerà di più per quanto riguarda KTM? Ovviamente enduro, immagino, come primissima scelta, ma anche naked, strada, insomma, quali sono le vostre previsioni per l'anno che è iniziato? Beh, sicuramente, come diceva lei, l'enduro è il nostro tra virgolette piatto forte. Abbiamo, come si può dire, la maggior parte della quota mercato sostanzialmente in Italia è KTM, per quanto riguarda appunto il fuoristrada specifico. Dai primi numeri che ho potuto vedere in questo trimestre ho visto una bellissima, un'ottima partenza per quanto riguarda i nostri prodotti legati al turismo lungo viaggio, con l'Adventure e la nuova 990 SMT. E ho visto anche un buon ritorno per quanto riguarda i monocilindrici specifici per l'utilizzo cittadino. Parliamo di una classica SMC che si lega al prodotto Motard piuttosto che all'enduro a 360 gradi, che può essere utilizzato sia in città che fuori città, nelle scampagnate di fine settimana. Pertanto due mercati con due prezzi sicuramente molto diversi, quello che dicevo, il turismo a lungo viaggio piuttosto che quello cittadino, e onestamente devo dire che c'è stata una buona risposta in questi primi tre mesi. C'è molta curiosità per vedere in strada il Freeride, questo modello totalmente elettrico che KTM lancerà nel 2011. Vuole svelarci qualche caratteristica di più? Diciamo che è un nuovo segmento, se così vogliamo definirlo, quello appunto legato alle motociclette sostanzialmente elettriche, chiamiamole così. È stata presentata in Giappone, è stato dato anche abbastanza risalto dalla stampa, soprattutto la stampa locale giapponese, che non si aspettava sicuramente una presentazione come questa, con un prodotto tra virgolette finito, quindi pronto per essere immesso sul mercato da parte di un'azienda europea. KTM crede molto in quella che è la mobilità cittadina, pertanto con i problemi che abbiamo oggi, con i problemi che naturalmente tutti i giorni troviamo sui giornali legati all'inquinamento, la soluzione della moto elettrica senz'altro potrebbe essere la soluzione del futuro. Il modello Street appunto si caratterizza anche per un discorso molto particolare, uno stile abbastanza, non voglio dire estremo, ma molto cittadino, se vogliamo chiamarlo così. E appunto, come diceva lei, sarà pronta nel 2011, sicuramente sarà un nuovo esperimento per KTM la presentazione di questa moto e la commercializzazione, anche perché ad oggi credo che nessun brand ha affrontato il discorso elettrico con una motocicletta specifica che si chiami proprio motocicletta e non sia magari il classico scooter piuttosto che la bicicletta elettrica. Sicuramente prima della presentazione avremo altre evoluzioni, perché tutto quello che è legato alle motociclette elettriche è legato a un discorso di batteria, il mercato vuole e ci dice ogni mese che ogni mese ci sono degli update per quanto riguarda appunto questo tipo di batterie che vengono utilizzate sulle motociclette. Pertanto quello che abbiamo visto sicuramente è un progetto di design definitivo. Per quanto riguarda poi naturalmente la componentistica finale, sicuramente avrà qualche caratteristica in più. Ringraziamo Angelo Cripa, numero uno di KTM Italia, che è stato ospite in questa domenica di Strade e Motori. Buon lavoro e a presto. A presto, grazie a tutti. Sono giorni di festa e molti hanno scelto l'automobile per raggiungere le località di villeggiatura o il luogo dove trascorrere la giornata di oggi, Pasqua, e domani in tanti prenderanno la macchina per la classica gita fuori porta. Oltre l'80% delle auto in circolazione sulla rete italiana, lo ricordiamo, è alimentato con carburanti tradizionali, la benzina e il diesel. Ma se avessimo scelto il metano, ad esempio, quanto avremmo risparmiato in questi giorni? Lo chiediamo a Dante Natali, presidente di Federmetano e a capo dell'osservatorio Metanauto. Presidente, buona domenica e grazie per essere con noi. Buona domenica a lei e buona domenica a tutti i radioascoltatori. Presidente, voi vi siete un po' divertiti a fare i conti in tasca. C'è qualche esempio di risparmio che avremmo potuto avere guidando un'auto a metano in questi giorni? Ma abbiamo ipotizzato una famiglia che si sposta da Milano verso sud, quindi abbiamo immaginato Cosenza e poi faccia ritorno. Questo percorso di 2140 chilometri, se effettuato con un autoveicolo a metano piuttosto che a benzina, consentirebbe un risparmio sul solo viaggio di 168 euro. Stessa cosa nel caso di un stessa situazione nel caso di un trasferimento di una famiglia da Bologna a Lecce, darebbe luogo invece a un risparmio di 141 euro sempre rispetto alla benzina. Non male. Presidente, vogliamo ricordare quanto costa un chilogrammo di metano al distributore, diciamo, quanto costa un pieno per una macchina normale, per una berlina media? Ma diciamo che autovettura, un'autovettura di media cilindrata spende normalmente intorno ai 12-13 euro per fare un rifornimento. Ricordo che il prezzo del metano attualmente è mediamente, perché il prezzo del metano non è diverso da quello degli altri carburanti, quindi è libero ed sono riscontrabili valori diversi. Comunque mediamente siamo intorno agli 830 al chilo. Ma è bene ricordare, visto che molti spesso fanno confusione, che un chilogrammo di metano corrisponde circa a un litro e mezzo di benzina. Molti sottolineano, Presidente, come ci sia però una difficoltà nel reperire, nel trovare stazioni di rifornimento. In questo momento in Italia com'è la situazione? Ogni giorno praticamente arrivano notizie di creazione di nuove stazioni di rifornimento per metano, ma quali sono i numeri aggiornati? Attualmente siamo intorno ai 725 distributori aperti al pubblico. Le situazioni nelle quali occorre maggiore attenzione sono il sud, alcune regioni meridionali e la rete autostradale. Lì c'è parecchio da lavorare. Che comunque è cresciuta anch'essa, sono cresciute anch'esse sia quella meridionale che quella autostradale, e spesso si dimentica che già oggi sulle autostrade italiane ci sono già 23 distributori aperti al pubblico. Presidente Natali, grazie per essere stato con noi in questa domenica di Pasqua, auguri ancora. Grazie a voi, auguri a tutti i radioascoltatori. E siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio insieme, questa mezz'ora di Strade e Motori anche nella domenica di Pasqua. Ancora auguri a tutte le amiche e gli amici che hanno viaggiato con noi. Grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia. Se avete voglia di scriverci, fatelo pure al nostro indirizzo stradeemotori@radio24.it. Sul nostro sito radio24.it la possibilità di riascoltare tutte le nostre interviste e gli approfondimenti. Allora, a domenica prossima per un nuovo appuntamento con Strade e Motori.